Wir hatten schon an einigen Stellen in der Diskussion und auch in den Vorträgen die Situation bedacht, dass Endzeiterwartung und Krisensituation in irgendeiner Korrelation zueinander stehen können, nicht müssen, aber doch stehen können und auch häufig stehen. Heute Nachmittag ist das Thema unserer Sitzung eine Thematisierung solcher Korrelation zwischen einer Krise, der zeitgeschichtlichen Situation und der Tradition der Endzeiterwartung, der eschatologischen Tradition, die den Beteiligten oder den der Krise unterworfenen Menschen eine gewisse Standfestigkeit oder zumindest ein Bewusstsein der Schwierigkeit ihrer Lage vermitteln kann. Roberto Rusconi wird sprechen über Il presente et il futuro della Chiesa, Unità, Schisma e Riforma nel Profetismo tardo medievale. Das ist eine gewisse Akzentverlagerung wenn ich so sagen darf, einfachen Endzeiterwartung, wenn wir von Profetismo sprechen. Auf der anderen Seite ist wie in keiner anderen Zeit natürlich die Verbindung zwischen Krise der Zeit und das Schisma des 14. Jahrhunderts ist eine der großen Krisen der mittelalterlichen Kirche und der Tradition der Endzeiterwartung mit Händen zu greifen, weil hier ja nicht nur, das ist natürlich ein problematischer Begriff, aber nicht nur die Welt in die Krise gerät, sondern genau die Kirche Christi, die Tradition der Endzeiterwartung weitergetragen hat und der Traditionsträger für solche Anknüpfungspunkte gewesen ist. Insofern sind wir nun besonders gespannt, was zum Prophetismus, spätmittelalterlichen Prophetismus in der Situation des Schisma von Herrn Rusconi uns berichtet wird. Ich darf Sie bitten, Herr Rusconi, unserem Usus folgend man soll sich vorstellen. Gut. Ich studierte in der Katholischen Universität Mailand und nachdem ich lehrte mittelalterliche Geschichte bei der Universität Trieste, franziskanische Geschichte bei der Universität Perugia und zurzeit Kirchengeschichte bei der Universität Salerno. Die Hauptgebiete meiner persönlichen wissenschaftlichen Forschung sind vor die letzten Jahrhunderten des Mittelalters, die Predigt an die Laien, die Bußliteratur und auch die Eschatologie natürlich. Und ich gehe weiter auf Italienisch. Ganz besser. Credo sia necessario chiarire, prima di iniziare in concreto l'esposizione dell'argomento indicato, i criteri che hanno determinato l'articolazione delle tematiche quali verranno esposte e che voi trovate nel riassunto che è stato distribuito. In primo luogo va chiarita la scelta del periodo che ho esaminato, periodo che si protrae grosso modo dalla metà del secolo XIV agli inizi del secolo XVI. Per un periodo di questo genere è necessaria senza dubbio l'assunzione globale del patrimonio escatologico apocalittico ed in particolare di quello elaborato nei due secoli immediatamente precedenti, ma assunzione che viene operata con una valenza consapevole, di prendere cioè questo patrimonio come una sorta di serbatoio di materiali che sono ampiamente conosciuti, utilizzati e, assai di frequente, manipolati dai contemporanei. Con questo voglio dire che mi interessa soprattutto l'uso, la utilizzazione di questo che si potrebbe chiamare un armamentario, e non la mera e semplice ricostruzione di una filiazione filologica nel tempo di idee che si potrebbero poi alla fine rivelare del tutto astratte. La seconda precisazione è per chiarire una selezione drastica che ho operato sui materiali, in quanto per esporre un argomento come questo, che mi piacerebbe anche riformulare fin dal principio nei termini indicati da Ovidio Capitani nella sua introduzione e che sono ben presenti a quello che io dirò in seguito, per fare tutto questo il rischio era di risolversi in una presentazione enciclopedica di una riflessione tardo-medioevale nell'ambito dell'escatologia apocalittica e del profetismo che è estremamente vasta. Per questo motivo allora la scelta è di proporre alcuni elementi centrali all'attenzione, evidenziare di questi elementi centrali la fisionomia e soprattutto quella che è la trasformazione indubbia di questi elementi escatologici nell'arco di tempo considerato. La premessa è naturalmente nello scisma ecclesiastico scoppiato nel 1378 con la duplice elezione di Urbano VI e di Clemente VII, ma soprattutto nella lunga durata della crisi istituzionale da esso suscitata. Gli scismi se ne erano conosciuti, ma non erano mai durati così tanto. Crisi suscitata sul piano istituzionale e che non solo si protrae per il periodo di formale rottura dell'unità della Chiesa d'Occidente, vale a dire fino al 1417, ma anche nei decenni successivi della crisi conciliare sino alla elezione e poi alla abdicazione di Felice V. Questo periodo cronologico e l'insieme degli avvenimenti che al suo interno si collocano costituisce un periodo di eccezionale coagulazione di una serie di tematiche presenti nel pensiero escatologico apocalittico dei secoli XII 14 e dei quali abbiamo ampiamente discusso in questi giorni. Allora rileviamo un primo fatto. Quelle che fino ad allora erano state predizioni, previsioni, minacce, elaborazioni e speculazioni di visionari, di teologi e di esegeti, sembravano trovare, almeno agli occhi dei contemporanei, una sconcertante e soprattutto vera realizzazione. Si è parlato proprio questa mattina nella relazione di Alexander Paciowski di un personaggio singolare come il minorita francescano Johannes de Rupeschissa o Jean de Roctaillade o come lo si voglia denominare. Personaggio estremamente interessante la cui elaborazione personale consiste soprattutto nel inserire la crisi della vita religiosa e la rottura dell'unità ecclesiastica all'interno di una concezione che è integralmente escatologico-apocalittica della storia. Non mi soffermo però su Jean de Roctaillade per due motivi. Uno contingente, vale a dire è in corso di pubblicazione una edizione critica degli scritti, che è attualmente in tipografia, credo a cominciare dal Libero Stensor, e quindi questo richiede se non altro di lavorare con più calma su testi più affidabili, ma soprattutto perché la diffusione dei suoi scritti non sembra essere stata particolarmente significativa, almeno sul piano della tradizione manoscritta a noi nota, con una eccezione che riguarda soprattutto l'area catalana, in cui le sue opere latine di relativi volgarizzamenti hanno avuto una notevole risonanza. Ma ancora maggiore la risonanza di Jean de Roctaillade nei personaggi che ne hanno utilizzato gli scritti. Uno è stato ricordato per l'area tedesca questa mattina da Paciowski. A me interessa ritornare su questo, diciamo, misterioso compilatore noto come Telesforo da Cosenza, a cui si deve la diffusione delle predizioni raccolte ed elaborate nelle opere di Jean de Roctaillade e in sostanza, la responsabilità principale della fortuna del profetismo escatologico gioachimitico e pseudo-gioachimitico a partire dalla seconda metà del secolo XIV e sino agli inizi del secolo XVI. A questo punto il primo punto, lo scisma come criterio per la periodizzazione della storia ecclesiastica. L'elemento più innovatore di questo opuscolo che si intitola Libellus de causis, statu, cognizione, ac fine, presenti schismatis e tribulationum futurarum, è infatti costituito dalla stretta connessione interpretativa instaurata fra periodizzazione della storia ecclesiastica in una sequenza di scismi successivi, il complesso delle attese escatologico-apocalittiche e l'attesa di una conseguente e necessaria riforma che è religiosa ed ecclesiastica nello stesso tempo. Questo personaggio, che per comodità chiameremo Telesforo, probabilmente un minorita, ebbe tra le mani uno scritto profetico redatto negli anni compresi tra 1356 e 1365, un commento che si fondava nella forma di expositio sull'Oraculum Cirilli con esposizione Abbatis Joachim, a sua volta opera pseudo-gioachimitica della fine del secolo XIII. In questo commento, da lui ampiamente utilizzato, un'idea costante corre nel testo: l'imminenza dello scisma nella Chiesa, considerato come punizione divina per i peccati del clero e del popolo cristiano. Da questo scisma, nel momento in cui si fosse verificato, avrebbero preso avvio gli eventi che inevitabilmente avrebbero portato il mondo alla sua fine, passando attraverso la tribolazione finale scatenata dall'Anticristo. Ed è estremamente interessante notare come quello che era nel testo della fonte di Telesforo l'attesa di uno scisma futuro viene ripresentato con le stesse identiche parole, solo mutando l'aggettivo futuro in presente nel testo di Telesforo. È ricopiato tale e quale. Ora, con questo genere di attese noi siamo perfettamente all'interno del filone profetico gioachimitico di orientamento politico filofrancese, ed infatti la redazione del Libellus di Telesforo si colloca in un momento politico ben preciso nello svolgimento dello scisma d'Occidente intorno all'anno 1386. Non è casuale quindi la scelta come fonte della exposizio che abbiamo appena citato e degli scritti di Jean de Rochetaillard, a loro volta fortemente orientati in senso politico filofrancese. Si potrebbe dunque dire, per concludere, che il Libellus di Telesforo è una sorta di sintesi completa di tutto questo, di questa tradizione profetica, di cui l'autore si preoccupa persino di dare, in una parte del suo scritto, la bibliografia, indicando tra l'altro alcune opere che noi non riusciamo a rintracciare con qualche difficoltà. Ora, cosa ci interessa a questo punto, ai fini dell'esposizione successiva? In particolare un elemento: il fatto che questo Libellus, collegato allo scisma in atto nella Chiesa, faccia riferimento a questo scisma come il momento finale della storia, a cui seguirà solo la conclusione della storia, e che in questa chiave venga riordinata tutta la storia precedente della Chiesa. Cioè è una proposta radicale di presentazione della storia della Chiesa sub specie schismatis. A Telesforo, infine, si deve probabilmente, ma se qualcuno conosce un uso in autori precedenti sarà interessante saperlo, il primo uso esplicito in questo genere di letteratura escatologico-profetica del termine reformatio per indicare il progresso della Chiesa nell'età finale delle attese gioachimitiche. Questa profezia di una reformatio ecclesiastica nell'età finale è a tal punto in sintonia con le più attese con le attese più diffuse alla fine del secolo XIV, che persino quello che si è rivelato il più severo critico del libello, il teologo tedesco Heinrich von Langenstein, il quale per confutarlo scrisse nel 1392 un Tractatus contra quemdam eremitam de ultimis temporibus, Heinrich ne resta almeno in parte affascinato. Ne rifiuta, come faranno molti altri nei decenni immediatamente successivi, le previsioni in quanto ritenute erronee, nel caso di Heinrich von Langenstein anche per motivi politici. La sua scelta per il profetismo è per un profetismo di tipo tedesco, ma vi è un diffuso rifiuto in Europa delle predizioni di Telesforo, ma solo in quanto sbagliate. In questi decenni non vi è un rifiuto, durante lo scisma d'Occidente, voglio dire, dello schema interpretativo, di una storia della Chiesa, cioè che si svolge per scismi e che con lo scisma finale si avvia alla conclusione necessaria e alla sua riforma. Per arrivare a conclusioni più definitive in questo ambito, bisognerebbe riprendere in mano lo studio della fonte, che purtroppo non è andata al di là dello studio del Donkel del 1933. Studio particolarmente interessante perché la diffusione dei manoscritti del Libellus è una diffusione di tipo europeo ed è una diffusione che si attesta soprattutto nel periodo dello scisma e della crisi conciliare, con caratteristiche anche formali nella tradizione dei manoscritti che rivelano diverse chiavi di lettura e che io vi indico nella semplificazione più lineare. C'è una serie di copie del Libellus che sono trasmesse come semplice trascrizione del testo, in genere all'interno di trattati di manoscritti miscellanei di natura canonistica relativi allo scisma. Ho sottolineato questo fatto di una linea di trasmissione del testo senza immagini perché l'altra linea, che corrisponde con più fedeltà alla natura originaria del testo, è una tradizione di manoscritti illustrati. Rientriamo anche con questo nell'ambito della letteratura profetica, ma è importante sottolineare che in questo genere di letteratura, e torneremo sull'argomento, la illustrazione non è mai puro ornamento, ma è molto spesso una chiave ermeneutica di lettura della predizione stessa. Quindi noi abbiamo una tradizione, diciamo, che riduce il livello di lettura del Libellus di Telesforo di Cosenza al solo testo, ed una che in parte ne conserva le valenze escatologico-apocalittiche insieme alle figure. Di questa riduzione dello spessore escatologico-apocalittico, per quanto riguarda la periodizzazione della storia della Chiesa attraverso scismi, ad opera di questo Libellus di Telesforo da Cosenza, un esempio molto significativo è senza dubbio costituito da un Tractatus de Schismate scritto negli anni 40, primo quinto, dal viennese Thomas Ebendorfer, autore anche di un trattato sull'Anticristo. La fonte principale di questo trattato, dichiarata, ma nello stesso tempo ampiamente contestata, malgrado venga saccheggiato a man bassa, è appunto il Libellus, di cui viene in sostanza recepito, in ogni caso, il metodo storiografico di periodizzazione della storia della Chiesa per scismi successivi, con una contaminazione successiva che esaspera un elemento di tendenza già presente nel Libellus, vale a dire la riduzione della storia ecclesiastica a storia papale. Non è una evoluzione che ci può stupire se si pensa, in tutt'altro campo, agli orientamenti della contemporanea storiografia umanistica italiana sui papi, dove appunto la storia è De vita Christi a communium pontificum. Nello scritto di questo storiografo e cronista viennese appare questa evoluzione ulteriore per mezzo di una singolare commistione, vale a dire, da un lato la ripresa della periodizzazione della storia ecclesiastica per scismi successivi e l'inserimento all'interno di questo schema della letteratura profetica dei Vaticinia Pontificum, vale a dire delle profezie figurate pseudo-gioachimitiche di cui nel Tractatus vengono puntualmente riportati i testi, ma non le illustrazioni, che però con minuzia vengono accuratamente descritte e commentate. In questo modo, però, ma sui Vaticinia torneremo più tardi, si avvia un processo, e questa è una citazione tratta da un testo del 1960, non siamo più in presenza di una escatologia che suggerisce un'ecclesiologia, ma di un'ecclesiologia che accoglie e sistema i dati dell'escatologismo tradizionale. Punto terminale, naturalmente si procede per passi successivi, per grandi salti volevo dire, lo indico per sola comodità in un trattato dello scrittore franco-borgognone Jean Lemaire de Belge, autore nel 1511 di un Traité des Schismes de Concil dans l'Église, pubblicato a sostegno della politica del re di Francia Luigi XII nei confronti di Papa Giulio II e ancora una volta per invocare la convocazione di un concilio ecumenico. La lista degli scismi ecclesiastici, perché a questo punto bisogna parlare di lista, era già presente in maniera frammentaria in altri scritti del secolo precedente, nel Supplementum Chronicarum del frate agostiniano Giacomo Filippo Foresti da Bergamo. Proviene allo scrittore Franco Borgognone dal Tractatus de Revelazione Beati Methodii, pubblicato ad Augsburg nel 1496 da Wolfgang Eitinger, quindi un poligrafo tedesco, il quale a sua volta la ricava dal Concordantia Astronomiae come un'istorica narrazione di Pierre Dailly, pubblicato ad Augsburg sempre nel 1490. Lo scritto, originariamente del 1414, è di un teologo francese, un sorbonista, notoriamente schierato su posizioni conciliaristiche. Anche lui aveva attratto ampiamente la lista degli scismi dal libello di Telesforo da Cosenza e se n'era servito per periodizzare la storia ecclesiastica. Ma alla fine, quello che nel Libellus, come eredità del profetismo escatologico gioachimitico, è la commistione di uno schema di periodizzazione della storia della Chiesa con l'attesa della fine dei tempi, qui diventa una lista puramente sterilizzata delle sue potenzialità escatologiche, da parte, lo sottolineo, di un autore che invece sembra estremamente curioso, in altri suoi scritti, della diffusione del profetismo nell'Europa del primo Cinquecento. A questa data però, cioè 1511, occorre arrestarsi, e non tanto per le vicende connesse allo svolgimento del Concilio Pisano e per le attese connesse a loro volta con lo svolgimento del Quinto Concilio del Laterano. Per citare solo alcune referenze, basti pensare alle manipolazioni della redazione originaria di uno scritto elaborata durante il pontificato di Sisto IV da uno spagnolo, da un iberico, noto come il Beato Amedeo, cioè l'Apocalipsis Nova, che come ha ben mostrato Cesare Vasoli è stata rielaborata dal cardinale Carvajal e soprattutto dal teologo francescano bosniaco Juraj Drajzic, se si dice così, comunque in Italia noto come Giorgio Benigno Salviati, oppure al famoso discorso di apertura del concilio di Egidio da Viterbo. E invece l'unità, questa volta destinata a diventare definitiva anche in Occidente, dell'unità ecclesiastica, ad intervenire in maniera drastica sulla morfologia del profetismo e della scatologia apocalittica. Prendo un unico esempio per chiarire cosa voglio intendere con questo. L'esempio è l'Opusculum De Fine Mundi, nelle edizioni a stampa apparse a partire dagli anni 70 del 400 attribuito al domenicano catalano, valenziano più esattamente, Vincenzo Ferreri, opera che segnalo ai presenti meriterebbe un esame più attento di quanto non sia stato fatto in passato. Questo opuscolo viene volgarizzato in italiano e ripubblicato nel 1527 con un titolo molto diverso: Mirabile interpretazione di profezie del fine del mondo per Santo Vincenzio dell'Ordine dei Predicatori. L'autore di questo volgarizzamento è un personaggio ben noto a chi ha studiato gli ambienti veneziani, cui si deve la prima edizione a stampa moderna delle opere di Gioacchino da Fiore, cioè Paolo Angelo. Paolo Angelo pubblica questo volgarizzamento in una veste editoriale però molto ammodernata. Il testo è quello dell'opusculum tradotto in volgare italiano, ma alle singole predizioni dell'opusculum segue tra parentesi, in questa stampa veneziana, l'applicazione delle previsioni dell'opusculum a Martin Lutero e agli evangelici di Germania. Questo chiaramente altera, a mio parere, in maniera non reversibile, la morfologia del profetismo escatologico apocalittico tardo medievale. Il secondo punto riguarda la progressiva de-escatologizzazione del profetismo papale e le prospettive alla fine uniformi del profetismo politico. Come ha sottolineato di recente Robert Lerner nella sua prefazione, nella sua introduzione all'edizione facsimile dei Vaticinia Pontificum tratte da un codice vaticano, è ad un sostenitore italiano del terzo pontefice eletto a Pisa nel 1409, il minorita Pietro da Candia, cioè Alessandro V, che si deve la redazione finale, quella più vulgata, delle profezie papali, dei Vaticinia Pontificum. Per chi non ha familiarità con questo genere di letteratura, ricordo semplicemente che si tratta di una serie di 30 oracoli figurati, costituiti cioè da un motto, da una figura e da una dicitura esplicativa. Questa serie di 30 oracoli figurati proviene dalla ricomposizione di due serie diverse. La più antica, con qualche discussione, viene datata nel decennio a cavallo dell'anno 1300. Adesso non credo che valga la pena di discutere per le sue conseguenze tardo medievali questa datazione. Consiste di 15 previsioni che terminano con l'attesa del Papa Angelico o comunque di un Papa riformatore, e quella che viene chiamata la serie ottimistica, anche se io comincio ad avere un po' di perplessità, pur avendo usato anch'io spesso, lo confesso, la distinzione ottimistico-pessimistico, comincio a pensare che è utile come termine di riferimento e deviante come strumento euristico, comunque chiamiamolo conclusione ottimistica. Una seconda serie viene elaborata alcuni decenni più tardi, è la cosiddetta serie che finisce pessimisticamente, perché l'ultimo oracolo non è più il Papa Santo, ma è l'Anticristo. Nel costituire una serie unica, questo anonimo attivo agli inizi del Concilio di Pisa combina le due serie invertendone l'ordine, in modo tale che la serie più recente nel tempo, che termina con l'Anticristo, viene messa prima della serie più antica, che termina con l'attesa del Papa riformatore. Risultato finale è una serie di 30 predizioni figurate in cui la tribolazione sta al centro, è il quindicesimo vaticinio, e le predizioni, di nuovo tra virgolette ottimistiche, stanno alla fine. Ora, quello che è interessante notare nella tradizione manoscritta di questi vaticinia nel corso del 400 è che queste predizioni, quale che ne sia il tenore, vengono sempre applicate ai pontefici dell'obbedienza romana oppure dell'obbedienza pisana. Vengono quindi esclusi i pontefici dell'obbedienza avignonese, di cui queste immagini di propaganda papale, che altro non si può dire, in forma di profezia sanciscono la definitiva illegittimità, nemmeno degni di essere profetati. La loro presenza è ampiamente attestata nelle biblioteche degli alti dignitari ecclesiastici, di principi e di signori nel periodo della crisi conciliare, durante la prima metà del secolo XV, in manoscritti riccamente illustrati che il raduno conciliare a Costanza aveva contribuito a diffondere per l'Europa. La nuova redazione, che colloca alla fine della sequenza di 30 illustrazioni le previsioni relative all'avvento del Papa Angelico e di un'Ecclesia Spiritualis, costituirono dunque, in quel periodo, uno strumento di interpretazione in chiave escatologica delle vicende ecclesiastiche con marcate caratteristiche filopapali. Forse una simile previsione a taluno non dovette apparire molto diversa dalla tanto auspicata reformatio della Chiesa. D'altra parte, era stata soprattutto la crisi dell'obbedienza avignonese, causata dalla cosiddetta sottrazione di obbedienza nel 1398 da parte della monarchia francese, a rimettere ulteriormente in auge una interpretazione in chiave profetica ed escatologico-apocalittica delle vicende dello scisma. Cito un esempio solo, perché studiato di recente molto bene dalla Millet, e la voluminosa raccolta del cardinale avignonese Martin de Thalba, morto nel 1403. In questa raccolta di scritti relativi allo scisma vengono trascritti, senza eseguirne le rispettive figure, i 15 vaticini della serie più antica e gli ultimi 3 della nuova serie. Questo a dimostrare che le due serie non sono ancora state messe insieme a questa data. Ora, il cardinale avignonese si trova a combattere con una interpretazione evidentemente assai diffusa, nell'ambito della quale lo scisma è connessa con l'immagine dell'ultimo vaticinio, il Draco Magnus dell'Apocalisse, la cui identificazione con Clemente VII viene a più riprese combattuta dai sostenitori del pontefice di Avignone. Negli stessi anni, questi sostenitori si trovano a combattere contro una piccola serie indipendente di sole 6 predizioni papali, più tardiva perché diretta contro Benedetto XIII, il cardinale Pedro de Luna, cui viene riferito il terzo pseudo vaticinio, quello cioè che in questa microserie precede la predizione del Pastor Bonus. È un vaticinio in cui il motto suona, a seconda dei manoscritti, luna autem feritur offertur o luna offeratur, cum solo rietur luna offeratur. È una paraetimologia molto frequente, profetizzandone quindi, a fini di propaganda politica, l'imminente rovina. Le vicende dello scisma, dunque, inducono a prestare attenzione alle profezie che in qualche modo adesso possono essere riferite e ad un'interpretazione escatologico-apocalittica della storia presente e futura della Chiesa. E questo anche nel caso di alti prelati, il cardinale che abbiamo nominato adesso, ma anche molti altri, che per formazione e per mentalità appaiono abbastanza riluttanti ad un simile genere di previsioni. La crisi conciliare, successiva alla ricomposizione dello scisma, sembra in realtà, se noi seguiamo almeno la testimonianza della diffusione manoscritta, sembra togliere questa valenza escatologico-apocalittica alla lettura dei vaticini da parte dei contemporanei. Gli indizi in questa direzione non ci vengono più tanto dalla diffusione manoscritta, ma dalla diffusione delle edizioni a stampa. I vaticini appaiono a stampa in Italia nel primo Cinquecento in numerose edizioni. Quello che sconcerta in queste edizioni è che in esse l'identificazione nominativa dei pontefici, l'argomento centrale della propaganda che consente l'utilizzazione di queste profezie a fini di propaganda papale, si arresta al periodo compreso tra Paolo II e Sisto IV. Non vi è più nessun aggiornamento della predizione, questo è un elemento abbastanza sconcertante, quasi che con le polemiche relative al pontificato di Papa Barbo, che avevano dato vita a una serie particolare di pseudo-vaticinia esemplati ad imitazione delle profezie papali, ma in realtà vero e proprio strumento di opposizione politica che da Venezia era stato importato a Roma, e soprattutto con le attese legate al pontificato di Sisto IV, pontificato nel cui ambito si colloca la prima redazione dell'Apocalipsis Nova, con questo periodo si venisse a porre termine ad un certo genere di attese escatologiche e apocalittiche legate alla figura del pontefice e alla riforma della Chiesa. Quanto poi al profetismo politico e soprattutto a quello di propaganda filo imperiale, credo che valga la pena, per delimitare l'argomento, di spendere assai poche parole. Parlare di orientamento nazionalistico per questo genere di testi è caratteristica che davvero si rammenta in maniera del tutto ovvia. Le nazionali Regungen del profetismo politico tardo medievale risalgono all'età di Federico II e arrivano tranquillamente all'età di Carlo V. Per rendere più chiaro il procedimento, che dimostra la perfetta interscambiabilità di previsioni magari formalmente molto dissimili, cito solo un caso che peraltro è ben noto: la profezia filo-francese relativa a Carlo VI, re di Francia, che inizia con le parole Carolus Caroli Filius, elaborata nel 1380, che con una grande e naturale disinvoltura viene applicata intorno al 1519 al neoeletto imperatore Carlo V d'Asburgo, senza modificare in nulla il testo e nemmeno le predizioni, cosa abbastanza sconcertante perché la descrizione fisica si attaglia a Carlo di Francia ma non a quel corpulento e sanguigno uomo che era Carlo V d'Asburgo. Quindi, unico adattamento per rendere plausibile questa antica predizione: Carlo diventa, da Caroli Filius, diventa Filippi Filius, e il Vaticinio serve benissimo per i suoi scopi. La lingua latina ne garantisce l'antichità, quindi l'autenticità, almeno agli occhi dei contemporanei. Quello che mi interessava sottolineare è questa sostanziale omogeneizzazione delle previsioni per quanto riguarda il ruolo escatologico assegnato ad un sovrano temporale. Si tratti dell'imperatore tedesco, del re di Francia, del re d'Inghilterra, del re di Scozia o di qualsiasi altro sovrano europeo. A ciascuno di essi, in sostanza, vengono applicate, con variazioni magari formali, le previsioni relative all'imperatore degli ultimi tempi. Strumento provvidenziale della punizione divina nei confronti del clero corrotto, a lui compete di essere il promotore, anche con la forza, della restaurazione della Chiesa, spesso contrastato da un cattivo sovrano, in questo caso i ruoli si invertono naturalmente tra francesi e tedeschi, inglesi e scozzesi e così via. Tra i suoi compiti escatologici, guidare la crociata contro i musulmani, riconquistare Gerusalemme e promuovere l'unità del genere umano in seno alla Chiesa di Roma. Ora, con questo io non voglio naturalmente banalizzare l'insieme delle previsioni politiche del profetismo tardo medievale, che, come ricordavo prima, spesso si modificano radicalmente nei dettagli, in concreto riferiti con il passare del tempo a diversi contesti politici, quanto piuttosto evidenziare un elemento comune. Al di sotto di un orizzonte escatologico ridotto ad affascinante mitologia, uno schema originariamente presentato come interpretazione globale della storia diventa banale strumento di propaganda politica, con una possibile eccezione, vale a dire la frontiera della cristianità occidentale con il mondo islamico, il Portogallo delle prime conquiste coloniali nell'Africa settentrionale agli inizi del secolo XV, la Spagna dell'espulsione dei Mori da Granada alla fine la presenza del padre Perarnau mi preoccupa moltissimo. L'espulsione della presenza dei Mori da Granada alla fine del secolo XV e, su poco dopo, contemporaneamente in realtà, la scoperta delle Indie occidentali, cioè dell'America. In questa area il profetismo politico presenta ancora delle venature originali nel configurare una missione escatologica dei sovrani nel ricondurre all'unità della fede cristiana l'intera popolazione umana. Il terzo punto è relativo all'ambivalenza dell'esegesi dell'Apocalisse, ovvero il problema della riforma religiosa come anticamera del giudizio finale. In questo caso bisogna forzatamente procedere per esempi, perché la letteratura è sterminatamente incontrollabile, almeno quando si va dalle fonti. Se l'urgenza degli avvenimenti collegati con lo scisma poté anche indurre magistri parigini come Pierre Dailly a prestare un orecchio più attento all'escatologia, può essere interessante osservare che, laddove si cerca di cogliere le attese escatologiche e apocalittiche degli illitterati, malgrado esse ci giungano sempre in qualche modo attutite dalle fonti che ce le tramandano, queste attese si caratterizzino per l'assenza di un significativo elemento che le integri in un sistema di interpretazione della storia del mondo e della Chiesa di carattere escatologico. Si tratta di visioni, cioè, che si risolvono in attese e prospettive di carattere sostanzialmente penitenziale. Alcuni esempi, perché collocati con ogni probabilità in connessione con il trauma, chiamiamolo così, della sottrazione di obbedienza del 1398, sono le visioni poste all'origine del movimento penitenziale dei bianchi, che si sviluppa in Italia nel 1399, le visioni in origine, secondo le varie redazioni, sono collocate o nel Delfinato o in Scozia, le visioni contenute nel libro delle Rivelazioni di Marie Robin, redatto dal suo confessore, è una visionaria legata al papato avignonese, e visioni datate a un anno prima della morte, cioè al 1398. E in questo ambito farei rientrare anche una versione più elaborata, perché è dovuto ad un teologo di notevole spessore, la visione di Alcagnif del 1398, quale Vicent Ferrer riferirà nel 1412 nella sua lettera al pontefice avignonese Benedetto XIII. In tutte queste visioni l'elemento comune è dato dall'annuncio di un'imminente punizione divina per i misfatti degli uomini e per la corruzione della Chiesa. Questa punizione viene arrestata grazie all'intercessione della Vergine, che ottiene dal Cristo giudice il tempo necessario a che finalmente si faccia penitenza. Ora, colpisce la data, appunto sono 1398-1399, una certa refrettarietà di queste attese rispetto a schemi di interpretazione escatologico-apocalittica più globale, soprattutto in anni in cui ci si avvicina a delle scadenze che alla Michelet dovrebbero innescare attese più corpose. Il 1400, per cui molti si aspettavano, anno in cui molti si aspettavano una nuova proclamazione di un giubileo, e il 400, che è una data centenaria che dovrebbe innescare tutta una serie di previsioni automatiche. Nulla di tutto questo. Pochi anni prima, e questo è un esempio che chiarisce taluni orientamenti a livello che verrà reso più chiaro in seguito, vale a dire tra 1393 e 1394, un teologo domenicano, Federico Renoldo da Venezia, redige per incarico del Signore di Padova un'esposizione in lingua volgare dell'Apocalisse di San Giovanni. Siamo certamente su una linea di interpretazione della scuola domenicana, dell'ultimo libro del Nuovo Testamento, che ingloba praticamente alla lettera sia la postilla di Hugues de Saint-Cher che l'exposizio di Alberto Magno. Interessa qui rilevare la chiave interpretativa che percorre questo libro di devozione alla fine e che rimanda ad una interpretazione escatologica ma destoricizzata dell'Apocalisse. Si tratta infatti di un commento che si risolve in uno scritto ascetico di pietà e di edificazione. E questo, mi interessa notarlo, in conseguenza dell'adozione di un preciso metodo teologico di esegesi della scrittura, vale a dire il riferimento della lettera del testo biblico al destino ultraterreno della Chiesa e dei cristiani, al di là e al di fuori della storia. Un'altra pista interessante potrebbe essere costituita dai volgarizzamenti spagnoli della postilla di Niccolò da Lira, ma purtroppo lo stato degli studi non consente se non di indicare la pista di ricerca, soprattutto nella prima metà del secolo XIV. Un altro punto su cui mi vorrei soffermare, anche perché è stato toccato dal professor Fried nella sua relazione, è il problema della iconografia dei commenti all'Apocalisse, ampiamente noto e ricordato per quanto riguarda il testo di Beato di Liebana, ampiamente ricercato nei secoli per quanto riguarda le apocalissi anglo-normanne dei secoli XIII e XIV, ma con una sostanziale omissione dei testi che invece si collocano tra XIV e XV e che non siano eredi di questa più antica tradizione. Anche qui faccio solo due esempi, anzi farò solo alcuni esempi. Uno che mi è parso assolutamente singolare è un manoscritto tedesco del secolo XIV, che ora si trova a Londra, alla British Library. Tra le varie figure, è un'iconografia del tutto indipendente da quella più nota anglo-normanna, tra le varie figure c'è la figura di Satana che viene richiuso per 1000 anni nella sua prigione. È il primo esempio che io conosco in cui le chiavi non sono tenute dall'angelo ma da San Pietro. Può sembrare una curiosità, a mio parere non la è, non è per nulla una curiosità. Il secondo esempio che si presta ad elaborazioni più ampie e che ci rimanda di nuovo però chiaramente ad ambienti colti e molto dotti, siamo all'entourage di Maria di Borgogna, siamo intorno al 1493, il riferimento è alle cosiddette Bedford Hours, che si trovano anch'esse alla British Library. Allora, queste Bedford Hours sono redate secondo la normale formula del Salterio, hanno una particolarità: nei bordi sono inseriti dei piccoli medaglioni che nelle primi due terzi di questo libro d'ore rappresentano un'interpretazione comparativa del Vecchio e del Nuovo Testamento. Questo è abbastanza corrente, è lo schema della Bibbia Pauperum in sostanza. La parte interessante è costituita dalla terza sezione, dove i due tondi molto piccoli, ma molto interessanti lo stesso, tutti scritti, riguardano l'Apocalisse, ma a questo punto salta lo schema tipologico, cioè il confronto dell'Apocalisse è nel tondo che sta nella parte inferiore del riquadro con la sua interpretazione in chiave morale ed ascetica. L'interpretazione dell'Apocalisse all'interno di questi ambienti si dirige in questa direzione. E allora farò l'ultimo esempio in questo ambito. Si tratta dell'Apocalisse miniata che a partire dal 1428 viene commissionata da un personaggio che abbiamo già nominato, il duca Amedeo VIII di Savoia, che dopo l'abdicazione verrà poi eletto antipapa con il nome di Felice V. Questa Apocalisse si trova in Spagna, all'Escorial, è molto interessante. È interessante l'illustrazione al passo di Apocalisse 9:1-7 relativo al cosiddetto angelo forte. Interessante perché l'illustratore si rifà al commento antomedievale attribuito a Berengaudus, ne ha accennato il professor Fried, siamo all'XI secolo, che però serve all'illustratore per evidenziare l'importanza della predicazione negli ultimi tempi della storia. Sed in diebus vocis septimi angeli, cum ceperit tuba canere, consummabitur mysterium Dei, sicut evangelizzavit per servos suos. Il risultato è di miniare, al riparo dell'enorme, grandioso angelo apocalittico, un piccolo predicatore, forse un francescano per quanto si riesce a vedere dalla miniatura, il quale enumera dall'alto di un pulpito eretto all'aperto i suoi argomenti ad una folla rappresentata in maniera molto convenzionale sul prato. Ma per sottolineare il carattere radicalmente escatologico di una predicazione che sembrerebbe del tutto ordinaria, la presenza in prima fila di questo pubblico di giudei e saraceni allude senza dubbio alla tematica della conversione finale di tutte le genti alla fede di Cristo. Ed è proprio in questa prima metà del secolo XV che il tema della predicazione si ricollega strettamente a quello dell'attesa e della rappresentazione degli ultimi tempi. L'esempio più banale, perché che ricordo perché è il più diffuso, è la cosiddetta vita Ioannis, cioè una vita figurata dell'evangelista ed apostolo Giovanni, con cui viene spesso racchiusa, vale dire posta in parte all'inizio e parte alla fine, del testo dell'Apocalisse, non importa se sia in latino o nei volgari o commentati. Ora, è interessante notare che negli esempi del primo 400, e ne ricordo solo due, un manoscritto fiammingo datato proprio 1400, che si trova adesso a Parigi, e una tavola di Meister Bertram, proveniente mi pare da Amburgo, e che ora si trova a Londra al Victoria and Albert Museum, in cui Giovanni viene rappresentato predicare la fede ai pagani da un pulpito, singolare innovazione iconografica per un evangelista. Ma più rilevante ancora, forse, è la gestazione nel primo 400 di quello che verrà stampato con il titolo di End Christ, il primo Blockbuch tedesco che diffonde il trattato figurato sulla vita dell'Anticristo. Il titolo, Von dem End Christ, appare a mia conoscenza, ma non ne sarei più sicuro di tanto, in un manoscritto in versi tedeschi che è attualmente conservato a Wien presso la Österreichische Nationalbibliothek, ma proveniente da Innsbruck, dove venne ricopiato nel 1393. Il titolo è stato aggiunto dal rubricatore in rosso, prima di un poema sull'Anticristo dell'ennesimo minorita, questa volta un tale Friedrich von Saarburg. È una rielaborazione di una fonte latina, con ogni probabilità il Compendium Theologicae Veritatis di Hugo Riplin di Strasburgo. A me interesserebbe discutere la singolare invenzione della rubrica, che trasforma l'anticristo nel Cristo della fine, come fra l'altro passa nelle lingue romanze diventando Antecrist o Antecristum, con una non casuale modificazione del termine originario latino. Questo titolo e questo testo, che si diffonde in manoscritti databili, i primi noti, intorno al 1430, appare appunto in questa edizione chiroxilografica, vale a dire un'edizione in cui nel blocco di legno venivano incisi nello stesso tempo le parole e le immagini, e si diffonde in numerose vite anticristi, immagini e commento in latino o in volgare, assai numerosi tra la metà del secolo XV, gli inizi del secolo XVI, in varie versioni, nei diversi paesi europei, Spagna, Italia, Francia, Germania. Non si tratta però di un semplice libro per immagini, dal momento che nella pagina iniziale e nelle pagine finali lunghi testi spiegano quale sia la chiave di lettura di questo opuscolo. In sostanza, una esortazione alla vigilanza nell'approssimarsi degli ultimi tempi, ovvero come si esprime una stampa italiana del 1510, che cito in un italiano adattato, queste sono le auctoritates dei santi dottori relative all'avvento di Cristo benedetto, al giudizio finale. Guardate bene, prima l'avvento di Cristo, con il suo preambolo orribile, vale a dire la malizia di questo pessimo uomo seduttore che è l'Anticristo. E allora l'Anticristo, prima di ricomparire con ben altro ruolo e proponendo ben altre identificazioni e funzioni nel corso della polemica antiromana dei primi decenni del secolo XVI, diviene il protagonista, certo un protagonista negativo, di quello che è stato chiamato un singolare libretto di morale cristiana. L'insistenza di questi opuscoli figurati nell'ammonire contro gli pseudo-predicatores, seguaci e propagandisti dell'Anticristo, se da un lato conferisce alla predicazione quattrocentesca uno statuto escatologico, dall'altro in realtà detemporalizza, cioè sottrae ad un tempo reale l'attesa della fine dei tempi, e sancisce in questo modo, tramite l'opuscolo di devozione, la risoluzione dell'escatologia appunto in devozione e in morale. Alcune conclusioni di un testo che, come voi avete visto, è un testo estremamente aperto. Quando si parli di Endzeiterwartung alla fine del Medioevo, si possono senza dubbio individuare atteggiamenti ed orientamenti anche assai disparati, e che in quanto tali si riconnettono, anche in maniera diretta, alla dinamica complessiva del corpo sociale. Questo è soprattutto evidente nel caso del profetismo politico, la cui funzione strumentale è resa ancor più tangibile nel manifestare, in maniera nemmeno mascherata, le sue finalità specifiche. Questo però consente di precisare che qualora ci si muova all'interno dell'escatologia a matrice più propriamente apocalittica, non si dà attesa della fine se non come articolazione di un pensiero fondamentalmente teologico. Con il che si chiarisce, senza ombra di dubbio, la fisionomia degli ambienti chiericali, dotti o comunque devoti, al cui interno la riflessione escatologico-apocalittica viene operata e l'attesa della fine dei tempi diviene un punto di riferimento per l'elaborazione concettuale, ma molto più raramente come strumento concreto per indirizzare una prassi storicamente effettiva. Vielen Dank für diese, diesen Überblick über die über den Gebrauch und die Benutzung von Motiven der Endzeiterwartung in der Situation des Schisma. Den Gebrauch, der sich in der Umwandlung von herkömmlichen Mustern auf die konkrete Situation zeigt, in der Anwendung und Modifikation herkömmlicher Schemata auf die gewandelte politische Lage und in der bis hin zur grafischen Ausgestaltung der Spätzeit, der Manuskripttradition, der Frühzeit, kurz vor der Erfindung des Drucks mit beweglichen Lettern, der Ausnutzung dieser Situation für eine mündliche und eben auch die Grundlage mündlicher Propaganda für eine schriftliche Propaganda. Wobei besonders auffällig ist, dass der Gebrauch eben keineswegs nur aus theologischen Motiven sich speist, sondern auch aus politischen Absichten, politisch-propagandistischen Absichten. Ich glaube, wir haben über diesen Bericht im Vergleich an ihm selbst und im Vergleich mit dem, was wir bisher gesprochen haben, eine Menge zu diskutieren. Im Jahrhundert üblich war, kein anderes Bild machen als über Handschriften. Herr Rusconi hatte aus dem breiten Schatz seiner visuellen Erfahrung und aus der reichen Kenntnis einer langjährigen Forschung uns ein Tableau gezeichnet, wie diese Texte, wie man mit diesen Texten hantierte und was uns die Handschriften über die Art des Hantierens mit den Texten sagen können. Ich denke, dass Fragen und Diskussionsbeiträge schon warten, hier abgeliefert zu werden. Ich erinnere noch einmal an unseren Usus, den ich keineswegs für einen Abusus halte, dass hier die Hackordnung umgekehrt ist, dass erst die Studenti und dann die Studiosi das Recht der Frage haben und darf hiermit die Diskussion eröffnen. Mit Geduld, Geduld, ja. Bitte sehr. Mi sono occupata di due manoscritti di Vaccinia che si trovano a Roma, uno alla Biblioteca Vaticana e uno alla Biblioteca Angelica, in cui Paolo II era presentato in veste di drago, nell'atto di calpestare i fedeli. Volevo sapere se i manoscritti a cui lei ha alluso precedentemente, che rientrano in una tradizione pseudo-gioachimita e che ha ricondotto ad ambito veneziano, facevano riferimento a questi oppure ne ha trovati altri di questo genere? I manoscritti, i primi a cui ho fatto riferimento sono quelli che ha studiato lei, quindi la risposta la sa già da sola. Ci sono altri manoscritti di ambiente veneziano abbastanza importanti e sono soprattutto esemplari del Libello di Telesforo da Cosenza, la cui iconografia è però molto è da un lato molto vicina a quella delle profezie papali, dei Vaticinia, ha delle specificità iconografiche che riflettono in maniera più diretta l'orientamento politico del testo. Quindi non sono, il soggetto è piuttosto l'imperatore di queste raffigurazioni che non il Papa. Quindi il riferimento essenziale era a questo appunto manoscritti che lei ha studiato e che riportano appunto l'atteggiamento di ambienti veneziani in questo contesto. Venezia è un ambiente molto interessante dal punto di vista della diffusione tardo medievale dei manoscritti che, profetici, che poi sboccherà nell'edizione a stampa delle opere gioachimitiche e pseudo-gioachimitiche, anche perché è un ambiente dal punto di vista della diffusione del profetismo tardo medievale molto conservatore. Questo si può semplificare in questo modo: la diffusione del profetismo a Firenze è soprattutto una diffusione di profetismo in volgare, la diffusione del profetismo a Venezia è soprattutto una diffusione di profetismo in latino. E questo, io ritengo anche questo, dicendolo in maniera molto sintetica, è un riflesso abbastanza diretto dei lineamenti culturali delle rispettive classi dirigenti. Adesso ho detto così un po', ma ecco, quindi non, più di così non saprei dire. Non c'era per allora. No, può fare una Vasoli, può fare Volevo chiederti un particolare. Quella miniatura del piccolo predicatore, forse minorita, dell'Apocalisse di Amedeo VIII, non può essere un'allusione proprio al Papa Angelico? Cioè, perché in fondo Papa Angelico è presentato spesso come un predicatore povero, no? Che predica a incolti, eccetera, e che forse qualche volta appare come un minorita, almeno si lascia capire, no? No, allora no. Io mi devo scusare purtroppo per la mia congenita disorganizzazione, non ho potuto portare le diapositive, anche perché avere le diapositive da alcune biblioteche è più difficile che avere appuntamento con la regina d'Inghilterra, molto più difficile. Non è il Papa Angelico, non lo può essere. La rappresentazione sotto specie di minorita nella iconografia apocalittica segue diversi filoni. Quello più noto e più studiato è quello dei due testimoni degli ultimi tempi, identificati con Enoch ed Elia, in alcuni esemplari del filone delle Apocalissi anglo-normanne, XII-XIII secolo. Vestiti di sacco, a volte sono dei minoriti, a volte io ho l'impressione siano semplicemente in abito eremitico. Ecco, c'è qualche forzatura in una interpretazione minoritica di alcune di queste iconografie. Perché dico che questo non è il Papa Angelico? Perché il Papa Angelico, quando viene rappresentato in veste papale. Non viene mai rappresentato nell'atto di predicare lui. Sono i testes, i testimoni della verità che predicano, Enoch ed Elia o le loro reincarnazioni. Di questo manoscritto poi in particolare, ci sono motivi di iconografia della predicazione che cosa di cui mi sto occupando in realtà adesso, mi ero dimenticato di dirlo all'inizio, che chiariscono che è una normale rappresentazione di predica. Nella seconda metà del manoscritto, e devo dire, emergono delle cose ancora più interessanti, perché il manoscritto è stato miniato in due tempi, uno prima del intorno al 1428 e prima dell'abdicazione di Amedeo VIII. La seconda parte del manoscritto è stata miniata negli anni Ottanta, e questo meriterebbe un lavoro estremamente interessante, perché appare la predicazione come momento di preparazione alle tribolazioni finali, ma non più rappresentata come evento escatologico, ma con la raffigurazione dei predicatori ordinari. Cioè, questa predicazione è rappresentata all'interno di una navata della chiesa, in un pulpitino messo al di fuori di una chiesa, e questo dettaglio è all'interno di un'iconografia marcatamente apocalittica. Quindi c'è di nuovo questa riduzione. Allora, per Arnau, ma a quanto mi risulta senza padre? No, più esattamente senza figli. Allora, siccome è una denominazione relativa, beh, lasciamo queste cose. Devo dire che mi è piaciuto moltissimo il suo intervento, la sua relazione, mi è piaciuta moltissimo. E vorrei approfittare anche l'occasione per non soltanto qualche indicazione puntuale, ma forse una questione di principio. Sulle indicazioni puntuali, io posso domandare se questo predicatore non potrebbe in nessun modo essere Vincenzo Ferrer, perché tutto l'altro coincide. Questo dell'Apocalisse delle Scorial, no. No, è un francescano. Nient'altro, tutto l'altro coincide. Se potesse essere, sarebbe perfetto, perché c'era l'obbligo, a partire dal 1412, c'era l'obbligo reale dal re al giame e alle morerie di ascoltare la predicazione di Maestro Vincenzo. Allora, se non è, non è. Un'altra domanda. Non ci sarebbe un'applicazione, che certamente avrebbe poche copie, del libro dei pontifici a favore di Benedetto XIII? Le dirò perché. Se non sbaglio, su Scriptorium, forse il 79 o 80, c'è stata la pubblicazione di qualcuno di questi dipinti o di questi? Mi pare di sì. No, non mi ricordo. Allora, io ricordo che la spiegazione, una almeno, giocava con questi due termini, Benedictus e Petrus. Non ricordo se anche giocava con la denominazione di Luna, e non in senso sfavorevole, bensì in senso favorevole. Allora potrebbe darsi anche che ci fosse qualche revisione a favore di Pietro di Luna, che peraltro aveva un certo interesse alla propaganda politica ecclesiastica a suo favore. Poi, l'altra cosa è, mi scusi, una precisione in quanto a quella lettera da Alcagniz. No, la visione di Alcagniz nella lettera del... No, senta, se la visione è di Vincenzo Ferrer nel 1398, non può essere ad Alcagniz, bensì nel palazzo papale di Avignon. Io l'ho detto che... dove lui era confessore del Papa. Del Papa, di Benedetto XIII. E poi l'impossibilità di uscirne è assoluta, perché proprio il 1398 incomincia l'assedio intorno al Palazzo Papale, che non finisce fino al marzo, concretamente la notte dell'11 al 12 marzo del 1403, quando Benedetto XIII scappa, semplicemente, no? Allora, la lettera è datata ad Alcañiz, credo che sia 27 giugno-luglio 1412, ma la grande visione, che è una notte di fuoco, è databile nel palazzo di Avignone. Comunque, quello che mi premeva piuttosto di sottolineare è il messaggio di questa visione, perché il messaggio è diventato quasi classico nella predicazione della fine del mondo in San Vincenzo Ferrer. È quello che lui chiama la visione delle tre lance. Ed è una visione in cui lui spiega che la fine del mondo doveva essere già all'inizio del secolo XIII, e che quando Gesù stava per lanciare una dopo l'altra le tre lance contro l'umanità e il mondo, la Vergine Maria supplica, e allora come ultimo possibile rimedio c'è la predicazione e l'esempio e l'opera di riformazione dei due grandi santi, Francesco e Domenico. Ma siccome è passato già un secolo e riformazione non ce n'è stata, allora le lance vanno lanciate, e per questo la fine del mondo non ha già nessuna possibilità di venire indietro, ma è una cosa già decisa, eccetera. Allora, questo è veramente il messaggio che nelle predicazioni San Vincenzo Ferrer spiegava continuamente, perché anche la gente lo chiedeva, che ci predichi della fine del mondo, e se non lo faceva, lui almeno in una data concreta lo faceva, ed era nella predica del giorno di San Domenico, in modo che per esempio il 5, dico 5 perché in quel momento la Madonna delle Nevi non aveva ancora spostato la data, no? Il 5 agosto del 1413 a Barcellona predica di questo, e si è conservato completo il sermone, no? Questa era una piccola precisione, ma quello che mi pare che sia, almeno nella mia intenzione, più di una certa maggiore portata, è l'ipotesi di lavoro di una spostazione continua della finalità politica di tutta questa vicenda con la fine del mondo. Perché alla fine lei ci ha parlato di una strumentalizzazione a scopo assolutamente politico, ma già di politica personale, di un re contro un altro re, eccetera. Ma io vorrei accennare alla possibilità che la strumentalizzazione politica fosse qualcosa di connaturale, assolutamente connaturale, con tutta la previsione o del transito al terzo stato, o in altra forma la previsione semplicemente, come in Vincenzo Ferrer, della fine del mondo, almeno in tutto il basso medioevo. E mi spiegherò. La base è che, come dice Vincenzo Ferrer, la cristianità non serve. La cristianità non è una realtà, bensì è una menzogna. Allora questo non può sussistere. E siccome non può sussistere, viene la fine del mondo, perché il mondo o è cristiano o non può esistere, perché Dio non lo può sostenere. E se Dio non lo sostiene, non c'è possibilità che il mondo esista. Proprio per questo io accennavo il primo giorno alla possibilità di un certo influsso della condanna del 1274 su tutta la tradizione apocalittica, specialmente a quella che è posteriore a questa data e va ricollegata con il gioacchinismo. Perché? Perché dopo quella condanna è chiaro chi è autentico cristiano e quello che non lo è. E tutti gli aristotelici, soprattutto quelli che sono discepoli di Averroes, non sono più autenticamente cristiani. Invece quelli che sono nelle sue idee lontani di Aristotele e di Averroe, e sono tutti questi, questi sono i veri cristiani. Non a caso, mi pare, nasce in questo momento il genere letterario dell'utopia, e nasce il genere letterario dell'utopia come presentazione di quella che è la cristianità splendida, quella che è la cristianità totale, assoluta, allora accettabile anche a Dio. E mi riferisco al primo libro di utopia proprio di cristianità, che è Il Lanterna del Lullo. Ma poi un'utopia è sempre sottogiacente nella terza età dello Spirito Santo, quella è l'utopia, perché lì ci sarà la giustizia e la bontà e la carità, eccetera, eccetera, e la fraternità e tutto quanto, no? E allora sarà il popolo cristiano veramente cristiano, che poi questo si vada spostando continuamente verso una strumentalizzazione propriamente politica, ma già politica, di un reame. Questo è anche spiegabile se connaturalmente qui abbiamo una indicazione di quello che è l'ideale di uno stato di cristianità conforme alla legge di Dio, e questo è un'alternativa costituzionale al regime del mondo. E finisco. E mi pare che tutto questo stia collegato con quello che è la base dottrinale. La base dottrinale è quella: il mondo o è cristiano o non può esistere. Allora, siccome non essendo cristiano non può esistere, deve finire. Ma questo vuol dire che soltanto hanno valore quelle cose che sono propriamente, strettamente cristiane. Proprio per questo, in tutto questo arco di pensiero, è anche connaturale la posizione antigiudaica, come anti tutto quello che non sia cristiano. Per esempio in Arnaldo di Villanova, anche in Vincenzo Ferrer, l'antisemitismo è viscerale e radicale. Ma perché? Perché lì non ci sono dei valori cristiani. Allora, siccome nel mondo soltanto ci possono essere giustamente i valori cristiani, tutti quelli che non li hanno devono scomparire. Ma questo mi pare che poi viene ridimensionato, anche perché quelle tesi condannate nel 1274, man mano, anche ad opera di Giovanni XXIII, si vanno imposando, no? Beh, e questa era la mia intervento. Allora. Io credo che posso, sì. Credo che non risponderò a tutte le domande del professor Perarnau, perché sono troppe. Quindi faccio una scelta. Le mie ammende sulla scarsa conoscenza della geografia spagnola sono come ovvie. Dunque, prima cosa. Esistono alcuni pochi esemplari di Vaticinia Pontificum favorevoli al pontefice dell'obbedienza avignonese. Adesso questo articolo di scriptorium mi sfugge, se è scriptorium, a meno che lei non alluda all'articolo di Leonie von Wilkens su una serie di vaticinia localizzati tra Baviera e Austria. Comunque ce n'è almeno uno che era conservato al capitolo metropolitano di Praga, già noto a Grundmann, e poi un altro ancora, in cui in effetti il vaticinio sembra applicarsi a favore di Benedetto XIII, modificando alcune cose. Resta un dato di fatto, sono testimonianze minoritarie, cioè sono pochi esempi, E poi è significativo che nei grandi dibattiti teologici tra 1406 e 1407 i teologi sostenitori di Benedetto XIII lottino molto fortemente contro l'applicazione a Benedetto XIII in senso sfavorevole dei vaticinia. Cioè ci sono, e era, lei ha ragione a dire era impensabile che non ci fossero, dei tentativi da parte di anche di Benedetto XIII di utilizzare questo mezzo di propaganda, che però restano assai limitati, anche perché poi di fatto la storia è quella che è, lui è perdente e quindi la propaganda va a favore di chi si afferma. Per quanto riguarda Vincenzo Ferreri, la visione che lei ha ricordato è, era stata accennata anche da me in quanto una delle più articolate. In questo tipo di visione Vincenzo Ferreri, come la riferisce nella lettera, riflette abbastanza la sua prassi di predicatore popolare e a mio parere lo schema è lo schema più semplificato, cioè il ritardo della punizione, della fine del mondo per l'intercessione della Vergine e per l'intervento dei grandi santi, Domenico Francesco o dei suoi figli, cioè Vincenzo in questo caso. Però lo schema rimane identico, cioè è, diciamo così, una messa in mora del scatenarsi degli avventi degli ultimi tempi, ma non ha uno spessore particolarmente interpretativo, è un invito alla conversione più o meno efficace, poi come dimostra la prassi delle predicazioni itineranti di Vincenzo Ferreri stesso. L'altro punto su cui, anzi altri due punti su cui mi vorrei soffermare, ma molto brevemente, sono il problema dello status escatologico del giudaismo nella escatologia e nel profetismo medievale. E allora, per quanto riguarda questo, dobbiamo stare molto attenti che nei testi normalmente l'integrazione è un'integrazione di tipo positivo, cioè la scomparsa del giudaismo è legata alla ricomposizione dell'intero gregge dei figli di Abramo, è questo tipo di scomparsa del giudaismo che viene prevista e non altra, con una variante dialettica, cioè che nella versione delle predizioni che prevedono la grande tribolazione scatenata dall'anticristo, allora l'anticristo possa essere uno pseudo re il cui centro è collocato in Oriente a Gerusalemme, tra Gerusalemme e Babilonia, e trovi il suo appoggio soprattutto all'inizio tramite anche con il popolo giudaico, ma non solo e non esclusivamente, e comunque anche questa variante si risolve allo stesso modo, cioè con la sconfitta, ma con la conversione finale di tutte le genti. Quindi ecco, questo è lo status del giudaismo nell'escatologismo tardo medievale, con una connotazione che io aggiungerei, che dal punto di vista dell'esegesi e dell'escatologia apocalittica il mondo deve finire comunque, non deve finire solo perché è corrotto. Nella scrittura il mondo finisce comunque, e questa è una cosa da non, che gli esegeti di sicuro non perdevano di vista, comunque motivassero il quando, il come e il perché. Per quanto riguarda infine il profetismo politico, io l'ho considerato soprattutto nella parte tardo medievale, cioè proprio nel suo congiungersi con una propaganda politica di età moderna. Allora, a questa fase lo sganciamento di alcune figure, imperatore degli ultimi tempi, eccetera, la cui matrice è gioachimitica nella concezione, è però diventato definitivo. Cioè, un conto se noi parliamo dell'età di Gregorio IX e di Federico II, ma se noi parliamo del tardo 300-400 europeo, cioè andiamo dalla Catalogna all'Inghilterra, alla Scozia e così via, è diventato ormai un armamentario di carattere ideologico in cui non si integra uno schema di pensiero complessivo ed efficace sul piano escatologico. Ecco, questo io del Lullo non so quasi nulla, ecco, questo lo confesso, rinuncio. Io farò solo delle domande, perché questo per me rappresenta quasi storia contemporanea come epoca, ma sono rimasto molto colpito da due punti della relazione di Roberto Rusconi, e cioè il primo e il secondo. Lo scisma come criterio per la periodizzazione della storia ecclesiastica. Io chiedo scusa, è probabile che tu l'abbia detto, c'è una datazione del Libellus de causis statu cognizione a fine presente schisma? Dovrebbe essere intorno al 1386. Questo è molto importante, perché questa indicazione dello scisma come in collegamento escatologico, no? Non è diffusa se non in certi ambienti, credo. E che tu sappia, dato che subito dopo, anzi con lo stesso sorgere dello scisma, con l'elezione di Urbano VI e l'opposizione di Clemente VII, si suscita in tutta l'Europa, ma in Italia addirittura molto presto, una trattatistica che diventa addirittura una tipologia, no? Ecco, io non la conosco quasi. Le pochissime cose che ho visto e che non sono di questo versante mi hanno sempre dato l'impressione di non annoverare nella propria tematica questo tema, questo elemento, e cioè la discussione in questi trattati, almeno all'inizio, per quello che io so, è una discussione di natura giuridico formale. Era lecito, non era lecito, è legittimo, non è legittimo. Allora io mi chiedo, lo scisma è una ulteriore occasione di una polemica che continua in certi ambienti, oppure si suscita come antitetica a tutto quello che sta avvenendo e non affronta, io questo testo non lo conosco, quindi chiedo, ma affronta il problema delle legittimità procedurali di questa elezione o dell'altra elezione, oppure si limita, o come vuoi, si interessa esclusivamente al significato, alla carica semantica che può avere il sorgere dello scisma. Seconda cosa, la progressiva de-escatologizzazione del profetismo papale e le uniformi prospettive del profetismo imperiale. Limiterò la prima parte. Nella abbondantissima trattatistica, in questo caso conciliare, farò solo un esempio, nella Concordanza Cattolica, no? Elementi escatologici ce ne sono? Immagino di, non lo so, te lo chiedo. E non a caso ho citato la Concordanza, perché e poi superato lo scisma e riappacificati sì, tutti, può anche capitare di vedere che lo stesso autore affronta invece in maniera esplicita l'argomento, ma lo mantiene a livello di così. Quindi sarebbe in questo caso provato che tematiche tema escatologico ha un valore propagandistico, perché la concordanza, torno a quell'esempio, ha comunque una proposta ecclesiologica, ma fondata, non credo, su elementi di fine dei tempi, ma su elementi tecnicamente ecclesiologici. Grazie. Grazie. Dunque, adesso bisognerebbe svelare un piccolo segreto, cioè la citazione del 1960 da me fatta è di un passo del professor Ovidio Capitani, come... No, ma mi serve per avviare la risposta, no? E... Allora, detto in altre parole, partiamo dall'ultima osservazione, questa sulla concordanza cattolica, eccetera. E ho io l'impressione che, per dare una risposta generale, quando si esca dai limitati ambiti del chiliasmo militante, limitati anche quando abbracciassero migliaia di persone, ma pur sempre limitati, il ricorso, almeno per quest'epoca, all'escatologia apocalittica, al profetismo, eccetera, è di fatto un ricorso, nel peggiore dei casi, che possiamo definire strumentale, nella migliore delle ipotesi, di riferimento. Mi spiego con un esempio che forse può inglobare l'insieme delle questioni. Di nuovo il cardinale Martin de Thalba. Grande raccolta di testi, e i testi che il cardinale raccoglie, perché un cardinale fa il suo mestiere, sono soprattutto testi giuridico-canonistici, secondo quella prospettiva, cioè la prospettiva giuridico-formale della legittimità dell'elezione dell'uno e dell'altro pontefice, delle conseguenze adesso che i due interessati non ci sono più, cosa che dal punto di vista giuridico-formale complica ulteriormente il problema. Nei suoi manoscritti lui raccoglie in due momenti precisi, perché queste annotazioni dei Vaticini sono proprio nell'anno della sottrazione d'obbedienza, sono trascritti dopo un trattato del febbraio 1399, quindi siamo in questo clima psicologico, trascrive anche questi testi, ma si ha l'impressione, adesso detto in maniera banale, per vedere cosa dicono anche loro. Ecco, cioè non sono mai il punto di riferimento, non sono mai un parametro di un'azione ecclesiastica reale, tant'è che nell'ambito della trattatistica al momento della genesi dello scisma l'unico personaggio che se ne occupa in una chiave che va un attimo al di là degli aspetti giuridico-formale è Giovanni da Legnano. Ecco, però ecco, sì, ma le sto un po' collegando tra loro. Però Giovanni da Legnano, sempre che questo testo o questi testi siano suoi, c'è qualche dubbio, ma probabilmente saranno suoi, fa piuttosto ricorso all'astrologia e alla teoria delle congiunzioni, cioè a un criterio che per una serie di contemporanei era molto più oggettivo che non il profetismo. Esatto, cioè era molto... Di qui la perplessità, cioè ci sono degli sbandamenti. Chi si rifà alla formalità dei procedimenti giuridico-canonistici, chi si rifà alle predizioni alle previsioni, no, questo probabilmente, per chi lo sa, è il commissariato della Nomentana. si rifà a quello che è ritenuto un ragionamento esatto, una predizione scientifica, che è quella astrologica. Ma malgrado tutta una serie di dibattiti, malgrado la compresenza negli stessi manoscritti spesso di testi astrologici e testi profetici, i due generi sono due forme di comprensione del reale e di previsione radicalmente diverse. No, c'è niente da fare. Poi i contemporanei come noi confondevano ogni tanto. Quindi sono cose accessorie, sono strumenti propagandistici o quando ci sono, ecco, oppure diventano, ecco, questo però è un aspetto che non sottovaluterei, perché la dizione propaganda appiattisce un po', per dire in una frase, possono diventare uno speculum reformationis, cioè il prospettare su un piano diverso delle direttive di riforma. Ecco, non so se questo risponde alle domande. Ecco, dopodiché, e poi ci sono anche un altro, ecco, quello che tu accennavi alla fine per la concordanza cattolica. È chiaro che alcune chiavi di lettura e alcune sensibilità sono strettamente collegate allo svolgersi degli avvenimenti. Si presta più o meno credito o ci si rivolge più o meno a determinati temi a seconda della reale congiuntura in cui si è immersi. Ja, jeder, der mit diesen prophetischen Texten arbeitet, weiß ja, in wie hohem Maße sie im Laufe der Jahrhunderte immer wieder bestimmten politischen Situationen angepasst werden. Also diese Applikation auf jeweilige historische Situationen ist ein ja, ganz häufiges Phänomen. Ich frage mich bei einer Reihe von Fällen, welcher sittliche Ernst diesen Applikationen immer zuzuweisen ist. Und damit stelle ich die Frage nach der jeweiligen politischen und damit historischen Bedeutung, ob man da nicht sehr stark wird differenzieren müssen. Ich habe bei vielen Texten, denen kann ich mich des Eindrucks eines gewissen spielerischen Elements nicht ganz erwehren. Um es an dem Beispiel der Papstprophetien zu zeigen, nicht, diese Texte sind meistens in oder sehr häufig in Prachthandschriften überliefert. Und wenn ich mich nun frage, fand man nun diese Folge von Papstprophetien, wo dann irgendwo mal vielleicht der Antichrist kommt, hat man sich davor gefürchtet? Oder hat man damit irgendeinen politischen Gegner treffen, diffamieren wollen oder umgekehrt rechtfertigen? Oder steckt hier etwas viel Lockereres zum Teil dahinter? Nicht diese Prachthandschriften, die schaut man sich an und sagt, egal ob der Antichrist vorn, hinten oder in der Mitte steht, nicht wie schrecklich, sondern doch eigentlich wie schön. Und wenn Sie gerade die Papstprophetien sehen, ihr Ausfluss im Laufe der Tradition werden einmal die Malachias-Prophetien sein, die man nun bei jeder Papstwahl auch heute noch hört und die eher ein Element der Belustigung, aber kaum des Ernstes sind. In welchem Maße muss man hier mit diesem spielerischen Element bei der Applikation prophetischer Texte rechnen? Dovrei confessare che è stato tutto uno scherzo. No, l'obiezione c'è. È un tipo di osservazione che, se non ricordo male, si trova già in Grundmann, per quanto riguarda le caratteristiche formali di un certo gruppo di manoscritti. Sono senza dubbio manoscritti di lusso, è una delle ricerche più piacevoli che si possono fare, non solo manoscritti di lusso, che sono quelli che noi andiamo a vedere più volentieri e che stanno in esibizione. Credo che queste loro caratteristiche esterne ci dicano molto di più sui circuiti in cui erano diffusi questi testi, che non su questa chiave di lettura, che forse può essere troppo facile, perché allora non avrebbero circolato più di un tanto. Cioè, devo dire, manoscritti di lusso, ambienti altissimi, della gerarchia ecclesiastica, ce n'era un esemplare in altro ambito nella biblioteca del Duca di Berry, non li aveva il macellaio di Firenze, quindi la circolazione è quella, quello che è rimasto poi, perché a mia conoscenza, ma forse non è abbastanza, io credo di avere rintracciato, e solo per caso, una copia dei Vaticinia in un manoscritto degli anni 40 del 400 che viene dalla biblioteca, da un manoscritto miscellaneo di un giurista. Normalmente in queste collezioni non c'è mai, circola solo separatamente. Questo si copiò anche in Vaticinia, questo è rarissimo. Ma non... Sì, certo, tutta la storia è uno scherzo. Ecco, se non... auch sagen, dass die Unterscheidung zwischen sittlichem Ernst und spielerischem Umgang mit Texten doch etwas problematisch ist, nicht? Der sittliche Ernst im Gegensatz zum spielerischen Umgang ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, nicht? Und wir sollten uns davor hüten, dies allzu unmittelbar auf unsere Fragestellung anzuwenden. Ich glaube, man kann eine Prachthandschrift, die in einer Bibliothek liegt, die einem Kardinal oder einem König oder einem Herzog gehört, da kann man nicht sagen, die Leute haben sich das angesehen, um zu sagen, wie schön oder wie schaurig schön, sondern die haben das natürlich benutzt, um im Zweifel nachgucken zu können, was steht denn nun eigentlich da. Und dann, ich meine, eine Handschrift, die ein Kardinal benutzt, die soll ansehnlich sein. Schriften Ockhams sind im 15. Jahrhundert in Pergamenthandschriften in Kardinalsbibliotheken zu finden. Das widerspricht ja eigentlich auch dem sittlichen Ernst, nicht? Eine Pergamenthandschrift, was Durables, und dann Kirchenkritik und das in einer Kardinalshandschrift des 15. Jahrhunderts. Also ich glaube, das sind einfach Kategorien, die nicht... treffen. Wir sollten die Vaticinien sind ja eben unsichere und nicht präzise Texte, und wenn heute in der Zeitung eine Malachias-Prophetie bei der Neuwahl eines Heiligen Vaters also wieder zitiert wird, dann wird sie ja deswegen zitiert, weil man nichts Gewisses weiß, nicht? Vielleicht stimmt's ja doch. Das ist ja kein spielerischer Umgang, sondern das ist die Unbestimmtheit des Künftigen, mit der man hier dann eben sicherlich auf verschiedenen Niveaus und auf verschiedenen intellektuellen Niveaus spielt. Aber das ist kein spielerischer Umgang im Sinne des Nicht-Ernst-Nehmens, sondern vielleicht auch gerade des Versuchens, es ernster zu nehmen, als wir es als wissenschaftlich gebildete oder wissenschaftlich bemühte Leute tun. Das ist, die nehmen das ernster, als wir es tun, gerade weil sie damit in der Vorsicht umgehen, die solche Texte induzieren wollen. Also ich habe da einen anderen Eindruck als die Unterscheidung zwischen sittlichem Ernst und spielerischem Scherz, und würde also die Bezeichnung, dass Geschichte spielerischer Scherz ohnehin ist, die ist natürlich richtig und No, volevo aggiungere solo due esempi che mi sono venuti in mente dopo, di uso però. Allora, 1378, Italia, Giovanni dalle Celle, a un suo corrispondente, lui rivolge l'invito a copiare l'ultimo dei Vaticini, quello della serie pessimistica, con l'immagine dell'Anticristo, e di appenderlo nella sua camera da letto come ammonimento. La seconda cosa, è la seconda cosa, non mi pare un gioco, l'altro era anche abbastanza terrorizzato. La seconda cosa, c'è un, mi pare sia il cronista di Orvieto, è un chierico, siamo al 1495, lui aveva un fascicolo di profezie che teneva appeso in camera, probabilmente, come si è visto in molti dipinti, appoggiato, inserito dietro, insomma si vede nell'iconografia del tempo, appoggiato così, attaccato anche con un cordino alla fine. Questa raccolta volante noi non la possediamo più, la conosciamo solo perché lui l'ha trascritta nella cronaca cittadina di Orvieto, e con questa motivazione, che tutti andavano a leggerla a casa sua e i fogli si strappavano. Non lo so, forse era un gioco. Sì, sì. Guerrini, vorrei accennare ad un aspetto tecnico delle illustrazioni di questi vaticini, che mi pare finora non sia stato affatto sottolineato. Le illustrazioni sono ad inchiostro acquarellato, non miniate. Lei giustamente diceva che si tratta di manoscritti comunque che circolano in un ambiente colto e ricco. Ora, il fatto che si tratti di illustrazioni a inchiostro acquarellato potrebbe rispondere a una duplice necessità. Primo, sono senz'altro più economici, perché il minio richiede, il possesso di materiali senz'altro più costosi. E la seconda è il fatto che risponde a una certa velocità di esecuzione. L'inchiostro acquarellato è senz'altro un elemento di più rapida elaborazione. No, questo è vero, grazie. Devo dire che io al presente non avrei davanti agli occhi una ripartizione degli esemplari, perché la più parte hanno le caratteristiche che lei dice della serie lunga. Moltissimo sono semplicemente disegnati a penna, e poi ci sono quelli a cui accennava Paciowski, che sono miniati. Proprio c'è questo codice Harley che sta a Londra, che io me lo faccio dare con un pretesto tutte le volte che vado, quindi me lo guardo. Ecco, cioè alcuni sono proprio, quello del Duca di Berry negli inventari ha addirittura il prezzo, e il prezzo è abbastanza alto, non è un acquarellato. Ecco, però questo è interessante per indicare che due elementi, una tipologia articolata che in qualche modo si può connettere con diversi destinatari, e poi è interessante questo accenno sulla rapidità di esecuzione, che è testimoniato nell'ambito di questo genere di letteratura, ma io mi ricordo solo alcuni esempi di non relativi ai vaticini e per l'età moderna, una grande fretta di copiare e spedire, sì, l'urgenza. Metta via quella mia dimenticanza. Sì, sì, sì, dopo lo... Io ringrazio il professor Prodi perché ha cercato con tanta diligenza un volume di scrittorium, e un volume di scrittorium. Grazie. Dico ringrazio il professor Prodi perché ha avuto la diligenza di cercare il volume di scrittorium dove c'è un piccolo articolo sul Libellus proprio di Telesforo di Cosenza, e poi alla fine anche la riproduzione di una pagina dove anche forse lei potrà vedere la... No, bene, lì è acquarellato. Sì, la miniatura. No, è acquarellato. Sì. Si vede da qua. Ma comunque, adesso anche posso aggiungere un'altra cosa. Posso certamente sbagliare, ma l'impressione della scrittura è quella della copisteria più ristretta al servizio di Benedetto XIII, fino agli ultimi tempi, in modo che fino agli ultimi tempi si scrive con questa, con questo tipo di lettera. Allora, io non so se Telesforo di Cosenza ha scritto quello che adesso leggo o non lo ha scritto, ma quello che c'è in questa pagina riprodotta dice così: Ravanus autem in revelazione divina quam avuit de angelico pastore et aliis summis pontificibus sic dicit, et revelabitur untus ad eo, qui avet praenomen monachi Benedictus, et nomen per litteram P, e dice Petram, nomen per litteram P, Pietro, di Luna, no, prenomen come Papa Monacus Benedictus, e Petram Habitans è il Rocher d'Avignon. No, in questo caso è Peñíscola. No, in questo caso è Avignon, sì, perché, e poi prosegue: iste paupere nudus electus a Deo, suadente iniquo pastore, ponetur in artissimo carcere. E si sottolinea nel margine: Papa ponitur in carcere, che è la situazione di incarcerato durante i 5 anni a cui ho accennato. Ma posso dire chiaramente, senza un'edizione critica del Libellus di Telesforo, che io non conosco a memoria nei suoi numerosi manoscritti, a una parte della domanda non posso assolutamente rispondere, e questo mi pare evidente, a parte che appunto è Telesforo e non i Vaticinia, per quello che non mi ricordavo. Attenzione. Questo testo che il professor Perarnau ha letto via di con un paio di interventi si riuscirebbe alla fine a applicarli anche a me, adesso mi si perdoni. No, cioè, cosa voglio dire? La chiave di, adesso ripeto, non avendo altri manoscritti in mano, io non mi ricordo la citazione di della Revelatio Rabbani che venga fatto in originale. Questo ci prova solamente che nell'esemplare posseduto da Pedro de Luna, Benedetto XIII, a Peñíscola, lui e chi ha fatto questa nota lo leggevano in questo modo. In ogni caso, questo non è un testo di propaganda, tant'è vero che stava nella biblioteca papale e non circolava certamente fuori da una fortezza assediata. Può dirci molto sulla coscienza o su come lui leggeva, ma il piano è diverso, cioè il rischio in questo genere di materia di confondere tutto alla fine. Comunque confesso che non lo conoscevo, sono onesto. No, c'era Fasoli forse. Volevo dire che questa stessa frase, Petrus, eccetera, è interpretata da Pietro Galatino come il fatto che sarà lui Papa Angelo. Infatti. Sì, poi in realtà questa è una delle pseudo attribuzioni, ragione tu, è una delle pseudo attribuzioni di un passo dei Vaticinia, contenuto nel Libellus, che erano note e che Galatino, a un certo punto dice, qua c'è scritto, beh, la cosa che trovo più divertente era la parte ascende calve, che consentì ad alcuni di identificarsi nel Papa Angelico a causa della scarsa capigliatura. Ich darf freilich doch etwas Essig in den Freudenbecher gießen hinsichtlich der Propaganda, nicht? Die Manuskripte von Benedikt dem 13. sind durchaus haben durchaus zirkuliert, und zwar immer wenn es möglich war. Die wurden am Hof richtig ausgeliehen und wir haben die Ausleihlisten. Ich weiß nicht, ob der Telesforus in den Listen verzeichnet ist, ich würde es aber sogar annehmen. Also die wurden ausgeliehen und abgeschrieben, und insofern sind sie schon Propagandainstrumente, auch wenn sie der Kamera des Papstes unmittelbar zugerechnet werden können. Also wir können so unmittelbar eine Handschrift nicht ansehen, ob sie eine Propagandawirkung beabsichtigt oder nicht, weil wir da müssen wir gucken, in welchen Umständen sie aufbewahrt wurde, und gerade die Bibliothek von Benedikt dem 13. ist nun sowas wie die erste öffentliche Bibliothek des 15. Jahrhunderts überhaupt, nicht? Also da wäre ich, jedenfalls würde ich diese These so überspitzt gegen die stellen, die Sie hier aufgestellt haben, um zu zeigen, dass man das so direkt und ohne weiteres auch nicht sagen kann. Aber ich glaube, diese Texte, worin ich Ihnen völlig recht gebe, ist, dass diese Texte eben so flexibel sind, dass sie, und sie sollen es ja sein, und nur das macht sie für die Zeitgenossen interessant. Bei allem Zweifel, den schon die Zeitgenossen zweifellos daran hatten, ob man sie zu jeder Zeit und immer so präzise verstehen könnte, wie sie es selber gewollt haben. Bitte schön. Die Frage des Ernstes, nicht wahr, der historiografischen Verwertung dieses apokalyptischen Materials, das zieht sich ja bis ins 17. Jahrhundert nach England hinein hin. Also ich gewinne aus dem Ganzen, was jetzt gesagt ist, den Eindruck, dass Naherwartungswellen und dergleichen sozusagen unmittelbare Ableitungen zu bestimmten Handeln sehr selten darin zu finden sind. Es ist das Denkmaterial über die immer dunkle Zukunft, die also den Gegenwartshorizont mit seinen Schwierigkeiten begleitet und wohin man sich in verschiedenen Formen notwendig wendet, nicht wahr, um irgendetwas zu sagen und zu wissen. Und eins ist natürlich immer, jedenfalls bei frommen Leuten, solange die Leute fromm sind, selbstverständlich, dass unabhängig von der Art der Geschehnisse auf Erden noch jeder sozusagen sich dem Gericht Gottes stellen muss am Ende, nicht wahr? Und deswegen ist der hiermit auch beförderte Aufruf zur Konversion oder zu frommem Leben, zur Buße und zu bestimmten kirchenpolitischen Entscheidungen oder Parteinahmen in Krisensituationen natürlich sehr selbstverständlich auch damit verbunden. Aber das hermeneutische generelle Problem ist, so viel ich sehe, kann man von den Phänomenen, apokalyptischen Phänomenen ausgehen? Oder muss man nicht im Grunde immer sagen, es sind nur Ausdrucksformen für Dinge, die eigentlich sozusagen modern ausgesprochen, wenn man es historiografisch formulieren will, anders formuliert werden müssen, nicht apokalyptisch formuliert werden müssen. Ich hätte fast eine Tendenz dazu, jedenfalls für Spätmittelalter und die frühe Neuzeit, dahin zu neigen. Und ich sage auch ganz offen, weswegen ich dieses etwas vage Votum jetzt einführe, weil ich mich immerhin 20 Jahre nachdenkend mit der Einschätzung der Apokalyptik bei Luther beschäftige. Welche Bedeutung soll man ihr zuwenden? Nicht wahr, dass die Bedeutung groß ist, im historischen Material ist klar, dass es sich einfügt in eine allgemeine Denkform des Spätmittelalters, ist auch klar, dass der wesentliche, sozusagen der bleibende Luther für den Kirchen und sonstigen Gebrauch seit der Aufklärung ohne diese Dinge gedacht wird, dass sie als zeitbedingt sozusagen abgestrichen werden, ohne dass Luther an Luther Wesentliches verloren geht, ist auch selbstverständlich für den, der diese ungeheure Literatur über Luther von ferne irgendwo kennt oder irgendwo in sie hineinschaut. Aber wozu diente das Ganze dann? Ich war, sagt man auf der einen Seite, da ist also doch eine sehr ernstzunehmende, für die Zeit sehr ernstzunehmende, neue, grandiose und vertiefende und auch exakte Bibelexegese. Bei Calvin freilich ist sie noch viel exakter nachher und ganz uneschatologisch eigentlich. Und auf der anderen Seite kommt er dann zu diesen schrecklichen Daniel- und Apokalypsen-Exegesen zwischen 1519 und 1521 und bis zum Tode über den Papst. Nicht wahr? Und in der neuesten dicken Lutherbiografie, die auf Deutsch erschienen ist, drei dicke Bände von Martin Brecht, da wird die Apokalyptik auch sozusagen als zeitbedingte Irrtümer abgetan noch, das kann man abstreichen. Ja, wozu ist es dann gut gewesen? Also ich habe mir da den Vers darauf gemacht, es war jemals immer dazu gut, zu etwas, wozu es im Mittelalter außer an der Grenze in den Franziskaner spiritualen Streitigkeiten annähernd, niemals gut gewesen ist. Nämlich dazu, einen fanatischen Kirchentreuen im Sinne der Tradition des Papsttums, der Bischofs- und Klerusorganisation und seiner Ordensorganisation zu einem kalten Hasser desselben zu machen. Ja, denn das ist nicht anders auszudrücken, was er ab 1519, 20, 21 diesem von ihm vorher sozusagen als geschichtliche Inkarnationsform Christi und des Geistes Verehrten entgegengebracht hat, ist nichts anderes als kalter Hass, wo man jeden Fäkalausdruck sozusagen den Teufel, den Dreck, dem Dreck, der Dreckschleuder, den Dreck zurückschleudern konnte. Herr Obermann hat das sehr schön in der Luther-Interpretation herausgearbeitet. Und da wird die Apokalyptik sozusagen unentbehrlich, um einen realen Bruch, der dann auch noch als Auslöser wirkte für eine ganze Spaltung, nicht wahr, und eine grundsätzliche Veränderung der spätmittelalterlichen Situation, historisch erklärbar zu machen. Da ist also sozusagen dieses tastende Gebrauchen des Materials plötzlich in ein ernsthaftes umgeschlagen, das für uns exegetisch genauso gewaltsam scheint wie die sonstigen spätmittelalterlichen Exegesen die Anwendung dieser Sachen von Joachim angefangen. Ich habe in meinem Vortrag gesagt, ist ja alles falsch, nicht? Für einen Modernen. Und trotzdem ist es interessant und wichtig. Man muss es sozusagen eine Hermeneutik der Apokalyptik entwickeln, um es gebrauchen zu können, damit es nicht bloß illustrativ bleibt. Entschuldigung, eine kleine Schlussbemerkung. Unter den vielen Engeln der Apokalypse ist ja schwer, sich durchzufinden. Und beim Nachschlagen nach dem starken Engel, den Herr Rusconi in seinem Skript hier zitiert, bin ich jedenfalls doch auf ein anderes Kapitel gekommen. Es steht im 10. Kapitel, nicht im 9. Sono, cambierò programma sul computer. non richiede risposta, se no una dedica posteriori della mia relazione all'altra grande studiosa di questi problemi, che è Miss Marjorie Reeves. E comunque ha dovuto controllare anche lui. Der Bogen der Themen unseres Seminars hat uns nun auch zum politischen Gebrauch, Missbrauch, Gebrauch eschatologischer Motive in politischer und propagandistischer Absicht geführt. Morgen werden wir am Vormittag die Relation von Herrn Vasoli über Humanesimo et Eschatologia hören. Ich glaube, wir haben damit einen recht bunten Strauß an Möglichkeiten, mit eschatologischen Themen umzugehen, hier uns vorgenommen. Für heute danke ich Herrn Rusconi und allen, die sich beteiligt haben an der Diskussion, und hoffe, dass wir morgen mit frischen Kräften und genauso lebhaft über die Humanisten und ihr ja im gemeinen Verstande, ihre im gemeinen Verstande nicht allzu große Nähe, aber das wird sich ja wohl präzisieren, zu eschatologischen Motiven uns unterhalten und debattieren können. Für heute herzlichen Dank und morgen pünktlich um 9 Uhr hier an dieser Stelle. Vielen Dank.